Avventurieri, l'eremita potrebbe indicarvi un passaggio segreto per proseguire. Oppure, come teme il druido, potrebbe trattarsi di un inganno. Un ultimo ostacolo posto a protezione della chiave. Spetta a voi decidere. Lo seguirete oppure no?